You've got to give a little. Indovina chi viene a cena? Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi. E che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, Tilly, che cavolo aspettiamo a mangiare? Bentrovati da Valentina Furlanetto dopo l'estate a questa nuova puntata di Indovina chi viene a cena. Lo sapete, la nostra trasmissione è dedicata all'identità che passa anche attraverso la cucina. Prendiamo come spunto sempre questo film degli anni 60, un po' antico oramai, ma i temi, quello dell'identità, dell'integrazione, del pregiudizio restano attuali. Succede di avere dei pregiudizi negativi verso le persone, ma anche verso il cibo, verso magari le spezie, poi magari riscopriamo di non poterne proprio fare a meno. Insomma, a tavola, come nella società e nella vita, i gusti cambiano. Parliamo quindi di cucina e ricette per raccontare i nuovi italiani, l'Italia che cambia. Oggi pomeriggio a Radio 24 prepariamo, cuciniamo la cena di questa sera con un ospite molto giovane che ha delle radici nell'attualità perché il padre è siriano. Buon pomeriggio a Shadi Amadi. Buon pomeriggio a voi. Lei è nato a Milano nell'88 da mamma italiana e padre appunto dalla Siria. Sì, mio padre è uscito dalla Siria nel 1968 dopo essere stato torturato e arrestato diverse volte perché era capo del partito nazionalista arabo nella regione di Homs. E dopo varie peripezie in altri paesi arabi è arrivato qua in Italia dove si è stabilito e ha creato una famiglia. Lei è nato in Italia? Sono nato in Italia, sì, e nel 97 poi abbiamo avuto l'amnistia dal governo siriano per poter ritornare in Siria e ora nuovamente ci ritroviamo in esilio a causa anche della mia attività, quella quindi di scrittore, recentemente pubblicato un libro di denuncia patrocinato da Amnesty International con l'introduzione di Dario Fo, La felicità araba, storia della mia famiglia e della rivoluzione siriana, e quindi le attività ci prevalicano la possibilità di andare in Siria legalmente. Iniziamo a parlare di Siria e dell'identità anche sua italiana e siriana insieme, partendo come sempre facciamo dalla cucina. Che cosa ci cucina oggi? Ma io farei del hummus, che praticamente è una pasta di ceci dove si mette sopra l'olio extravergine di oliva e si mangia con il pane. E poi farei tranquillamente anche un'insalata normalissima e per me questo sarebbe già un ottimo pasto. Lei c'è stato in Siria? Ma io ci andai l'ultima volta nel 2009, in tutta la mia vita ci sono stato tre volte. Il 2009 rimasi lì per quasi un anno intero a studiare, a scoprire le mie origini, le mie drammatiche origini. Qual è il paese dal quale proviene suo padre, in che zona? Arriva da un villaggio vicino a Homs, questa triste città che è sotto assedio da un anno e mezzo, ma chiaramente nessuno ne parla di quello che avviene lì e che non esiste praticamente più perché è stata rasata al suolo. Nessuno ne parla, in effetti nessuno ne parlava. Scriveva lei l'8 di luglio, Siria siamo passati di moda. In realtà purtroppo o per fortuna i riflettori sono puntati sulla Siria nelle ultime settimane e negli ultimi giorni. Mi pare di capire però che la comunità internazionale, secondo lei, si sia svegliata un po' tardi. Il punto di non ritorno è stato probabilmente ovviamente quell'attacco di fine agosto, un presunto attacco con gas da parte del regime di Assad. Lei è un po' arrabbiato con la comunità internazionale che si sembra aver scoperto che la Siria è in guerra soltanto adesso, mentre sono 2 anni che c'è questa situazione. La Siria è diventata un po' una notizia usa e getta, se vogliamo metterla così. Scrivevo sul Corriere della Sera online proprio l'altro giorno il digiuno, sul fatto del digiuno e il fatto che i pacifisti si sono risvegliati oggi. Cioè sembra che la guerra in Siria sia iniziata la mattina del 21 agosto, quando il mondo ha visto le immagini del massacro con i gas a Ghouta nell'area di Damasco. Oggi si disquisisce su chi esattamente li ha usati, ma io vorrei far notare che c'è una dittatura da 40 anni che ha massacrato la popolazione siriana. Ancora oggi c'è gente, anche qua in Italia, tra le sfere ben pensanti sia della politica che del giornalismo, che tendono a cercare di scusare Assad dicendo sì, Assad va male, ma dall'altra parte, d'altronde, non è che va meglio. E quindi vorrei far notare di quanto ci sia una tragedia che ha già provocato 6 milioni tra profughi esterni al paese e rifugiati sostanzialmente. Nell'area di Homs, dato che non se ne parla, all'inizio del 2011 è stato scatenato un conflitto a sfondo confessionale dalle forze di regime. Me lo raccontava mia zia, che stava lì a Homs, che venivano questi miliziani del regime con dei coltelli da macellaio a tagliare a pezzi le persone, quelle che le passavano davanti, sunnite, per far scatenare l'odio tra i sunniti, gli alawiti e i cristiani. Quindi di che cosa stiamo parlando? Non esiste legittimità per questo governo, ma oggi la comunità internazionale è ancora tentenna su cosa bisogna fare. Si parla di soluzione politica, ma dopo 110.000 morti la vogliono cercare. Nel 2011 andai a bussare le porte sia al Parlamento europeo, quello italiano, per essere ascoltato. Mi ascoltarono, più che pacche sulle spalle non ricevetti altre risposte. Come mai queste primavere arabe si sono trasformate, in particolare questa siriana, ma abbiamo visto anche in altri luoghi, in inverni in cui ci siamo un po' impantanati tutti quanti? Bisogna che si riconosca la società araba e che si crei un dialogo tra le due sponde del Mediterraneo. Se la nostra società civile italiana, come ci appellammo io e padre Paolo Dall'Oglio e tanti altri già nel 2011, i pacifisti allora nel 2011 avessero fatto la loro parte, ma fossero andati in Siria a proteggere i civili, dato che oggi si parla così tanto, avessero riconosciuto, ci fosse stato un movimento solidale con il popolo siriano, non ci saremmo mai trovati adesso in questa situazione. Se poi vogliamo parlare del jihadismo in Siria, ma il jihadismo è normale che arrivi in Siria, sa perché? Perché all'aumentare della repressione del regime, che è una cosa spaventosa quella che hanno fatto, è indicibile, neanche a parole si riesce a descrivere, dall'efferatezza che hanno fatto, portando, come dicevo prima, allo scontro confessionale, è normale che in tutto questo buco, vuoto, di abbandono totale, il jihadismo attecchisca e trova poi personaggi all'interno del paese, della Siria, abbandonati che lo abbraccino come unica sfonda di protezione. È normale che poi io le dica: io sono contro il jihadismo tanto quanto sono contro il regime di Assad, ma io rappresento quella società civile siriana democratica che non è mai stata ascoltata e che è quella che ha provocato l'inizio della primavera araba in Siria e che continua a morire sotto le bombe di Assad, quelle bombe sganciate dai suoi aerei che non indignano il mondo. Invece gli aerei americani indignano il mondo, ma gli aerei siriani, che anche mentre io e lei stiamo parlando adesso stanno bombardando Homs, quelle no, vanno bene. E il giornalista Quirico è stato liberato qualche giorno fa, è ancora sotto sequestro padre Paolo Dall'Oglio, che lei ha ricordato prima. Quirico ha detto: la rivoluzione che conoscevo mi ha tradito, e ha parlato di un paese in preda all'odio. È un paese che lei riconosce con le immagini che ha nella sua testa di quando c'è stato, quelle 3 volte in cui lo ha visitato, dei profumi, gli odori appunto dell'hummus e degli altri piatti che lei conosce? Ma chiaramente è un paese abbandonato all'odio. Su quello che ha detto Quirico sul fatto che la rivoluzione siriana l'ha tradito, io credo che siano parole dette da lui a caldo come prima impressione. La rivoluzione siriana semmai è stata tradita dalla comunità internazionale, non ha tradito Quirico. Quelli che hanno sequestrato Quirico sono già dei traditori del popolo siriano. sostanzialmente, perché non si sequestra un giornalista che viene in Siria a fare il suo lavoro. Allora la questione è quanto la comunità internazionale, anche lo stesso giornalismo, hanno coperto le vicende siriane, hanno dato la giusta misura di quello che avveniva in Siria. No, il paese di oggi è un paese dilaniato profondamente dall'odio, perché ci sono stati massacri etnici, soprattutto nei confronti religiosi, etnici religiosi, nei confronti dei sunniti, che non vengono raccontati, glielo dico spudoratamente da laico, no? Non sono uno che tende sempre a sottolineare la confessione religiosa delle persone, però anche questo vanno sottolineate, sono state da questo che poi è nato quell'odio religioso a cui siamo in Siria. Allora oggi noi dobbiamo agire pensando a due cose: prima di tutto come far finire quello che avviene in Siria, cioè togliendo Assad dalla sua comoda poltrona, e secondo come facciamo poi a ricostruire una Siria felice, e serve sostanzialmente riconciliazione e uomini del dialogo che sappiano amare questo paese, un po' come sa fare padre Paolo Dall'Oglio, ma l'Italia non l'ha mai capito, in primis il ministro degli esteri Emma Bonino non ha mai capito chi era padre Paolo Dall'Oglio. Perché dice questo? Lo dico questo perché l'Italia ha avuto tante possibilità anche ultimamente, visto il clima internazionale in cui vivevamo, di poter adoperare padre Paolo Dall'Oglio come uomo del dialogo mandato dall'Italia e dall'Unione Europea, ma in primis dall'Italia, per trovare una soluzione anche tra le varie parti che sono in conflitto in questo momento in Siria. Dall'Oglio è visto dai siriani, come glielo posso dire, come il Garibaldi con la tonaca, il prete dei musulmani, per me è la mia guida spirituale in questo senso. Allora Dall'Oglio, noi tutti lo sappiamo, è andato a Raqqa a fare, ed è cosa nota, dialogo tra le aree dei curdi che erano in conflitto con i jihadisti. Ma perché ci è andato lui? Ci è andato semplicemente perché nessuno da parte della comunità internazionale si è mai interessato a fare un dialogo politico sul campo. Se padre Paolo Dall'Oglio non fosse stato lasciato da solo, in primis dalla Chiesa, secondo anche dal governo italiano, probabilmente adesso Dall'Oglio sarebbe qua in Italia e non sequestrato chissà dove, a Raqqa. Chiederle dei video, no? I famosi video che sono stati anche diffusi di recente dalla CNN dello sterminio con gas alla periferia di Damasco di fine agosto. Lei li ha visti, immagino. Senta, c'era il marito di mia cugina a Saqqaba, che è una zona vicino a Ghouta, è rimasto ferito in quel giorno, quando hanno usato i gas contro la popolazione. È scappato, ho visto di persona il lancio dei missili da parte delle postazioni del regime. Quindi io li ho visti quei video, ma non è nulla di nuovo rispetto a quello che hanno già fatto in questi 2 anni e mezzo passati. E invece è raccapricciante la questione della sollevazione dell'opinione pubblica mondiale, che ancora oggi si risveglia e poi probabilmente si assopirà di nuovo tra qualche settimana magari. E la Siria ancora continuerà nella sua caduta libera verso l'inferno. Quindi lei sottolinea, e mi sembra anche giusto, il fatto che il modo in cui sono stati esterminate quelle persone non è che cambia la sostanza, il fatto che prima magari ci fossero delle bombe, delle armi di altro tipo, e sono abbastanza d'accordo, però è interessante anche cercare di capire chi ha usato quei gas. Piccinin, che era stato sequestrato con Quirico, ha detto che ha sentito una conversazione o origliato una conversazione nella quale si attribuiva tutto questo ai ribelli. Quirico ha detto che appunto non ha conferme di questo, quindi si tratta di una chiacchiera sentita, non c'è un'attendibilità vera e propria di questo discorso. Lei che impressione ha? E poi chi è Piccinin? Io le dico che quella ruta era sotto controllo dell'esercito libero siriano. La popolazione che è stata colpita dall'uso dei gas chimici si è andata tutta quanta a ricoverare in ospedali clandestini. Se fosse invece stata sotto controllo dell'esercito, perché tutte queste persone non si sono recate negli ospedali nazionali siriani? E perché le uniche immagini che ci arrivano sono quelle mandate dagli attivisti siriani e non dalla TV ufficiale del regime di Damasco? Io credo anche che sia un dibattito a vuoto quello della questione su chi ha usato le armi chimiche, perché non è che sono morte 1400 persone e basta in Siria, ne sono morte altre 110.000 precedentemente massacrate dalle armi convenzionali di Assad, ma questo per l'opinione pubblica mondiale era privo di qualsiasi necessità di dibattere, quindi dovremmo concentrarci sulla vera natura di quello che sta succedendo in Siria, cioè che è un massacro, anzi chiamiamolo con la parola giusta, un genocidio legalizzato nell'indifferenza della comunità internazionale. Riguardo Piccinin, brevemente, nel 2011 questo signore sosteneva il regime di Damasco, nel 2012 viene arrestato vicino a Homs dalle forze lealiste del regime, viene torturato, cioè sono fior fior di articoli anche sull'Espresso, dove racconta le torture, e diventa appartenente, sostenitore della rivoluzione siriana. Oggi questa persona, dopo 5 mesi di prigionia, nascosto chissà dove, in qualche buco o qualche stanza, se ne esce fuori dicendo di aver sentito che le armi chimiche sono state usate dai ribelli. Io francamente credo che questa sia soltanto una sparata per far parlare di lui, sostanzialmente, per vendere ancora una notizia sulla Siria, sul sangue dei siriani. Non credo assolutamente in quello che dice Piccinin, soprattutto conoscendo i precedenti di questo signore. E Quirico, poi, che è una persona onesta, ha già dichiarato la veridicità. Rientriamo su questa canzone, l'autrice, la cantante, l'ha scelta il nostro ospite, come mai e chi è? Lina Shamamian è un'autrice siriana molto famosa che canta già da un decennio almeno e che oggi si è schierata, lei è armena cristiana, con l'opposizione e gira il mondo sostanzialmente cantando e raccogliendo soldi per aiutare appunto i bambini in Siria e il disastro umanitario nel paese. Disastro dal quale anche suo padre è scappato, è in esilio, lo ricordiamo, e lei è attivista per la causa siriana. Ci racconta qualcosa di più della sua esperienza personale in Italia? Diceva suo padre è arrivato qui, immagino ci sia stato l'incontro quindi con sua madre e un matrimonio fra persone con due identità diverse. La nostra trasmissione parla proprio di questo, dell'incontro di due identità diverse. Qual è stata, come è stato crescere in una famiglia così con due radici, una italiana e una siriana? È stato bellissimo, non abbiamo mai avuto in famiglia problemi, mia mamma è cristiana, mio papà è musulmano e io sin da piccolo sono andato in chiesa a pregare, ho fatto le scuole cattoliche, quindi so il Padre Nostro e l'Ave Maria alla perfezione e poi io a 18 anni ho scelto di abbracciare l'Islam, ma essere musulmani non significa non credere anche nel cristianesimo, quindi io sono sì musulmano ma sono anche cristiano in questo senso, perché le religioni si incontrano tutte e tre sulle tracce di Abramo sostanzialmente, e quindi posso dire che a casa mia non c'è stato lo scontro delle civiltà ma c'è stato semmai l'incontro, un felice incontro delle civiltà, e poi dipende anche dalla sensibilità e dal rispetto reciproco che c'è tra le persone, esistono le brave famiglie come esistono le cattive ovunque. A casa sua si cucinava italiano oppure una cucina araba? Ma prettamente italiano. Mia mamma è sempre stata una brava cuoca e quindi abbiamo sempre mangiato italiano senza problemi. Però immagino che suo padre le raccontasse fra i suoi ricordi della Siria anche dei profumi, degli odori. Sai, io e mio padre abbiamo iniziato a parlare della Siria più a fondo direi da 2 anni a questa parte, perché dopo le torture, quando un uomo le subisce, provocano il fatto di rinchiudersi. E quindi stiamo scoprendo via via, man mano, giorno per giorno, la sua vita precedente, quella che ha fatto e che non ha mai voluto raccontare, che probabilmente non racconterà neanche tutta. E avete ancora dei parenti lì, li sentite? Ne abbiamo tanti, abbiamo difficoltà a sentirli perché non li vogliamo mettere a rischio, sono già stati a rischio abbastanza per le attività che abbiamo portato avanti già qui in Italia, anche a livello europeo, quindi non vogliamo farli vivere tranquillamente, quindi evitiamo anche di sentirli se è possibile. Lei anche ha subito delle intimidazioni, mi pare di capire, a seguito della sua attività di dissidente politico. Sì, è accaduto, non è nulla in confronto a quello che avviene in Siria. Quindi noi dovremmo riflettere, secondo me, sulla questione del fatto che non ci dovremmo accorgere delle persone che sono dittatori soltanto quando iniziano a massacrare il loro popolo, ma ci dovremmo già accorgere a priori delle persone che noi incontriamo che sono dittatori. Cioè non possiamo tralasciare la questione della democrazia grazie agli accordi economici che noi possiamo instaurare con dei paesi governati da delle dittature. La storia comunque della sua famiglia e di lei personalmente in Italia è una storia, mi pare di capire, di grande integrazione, no? Non è sempre così per le persone che hanno radici straniere in Italia. Lei cosa pensa della presenza di un ministro dell'integrazione come Cécile Kyenge? Ma credo che vada benissimo, ne scrissi anche di questa cosa. Ha una lotta dura da fare contro quei razzisti italiani che ci sono, che gli dicono di andare a mangiare le banane o di tornare in Africa sostanzialmente, che per me sinceramente è scandaloso sentire queste parole poi dette da alcuni politici. E quando io sento queste parole dette da alcuni politici italiani, sostanzialmente io mi domando: ma cosa ci sanno a fare lì eletti al Parlamento piuttosto che in consigli regionali? Dovremmo togliere a loro invece questi incarichi, perché rendono indegna ancora di più la politica. Allora Cécile Kyenge è di sicuro un passo in avanti per l'Italia, perché l'Italia si sta avviando oramai da decenni verso la costituzione di una società che deve essere cosmopolita. E lei ha mai subito degli attacchi oppure anche degli atteggiamenti di pregiudizio, di razzismo nei suoi confronti? No, devo dire di no, perché anche fisicamente non posso dire che nessuno direbbe mai che ho delle origini siriane. Semmai gli attacchi li ho ricevuti soltanto per le mie posizioni sulla Siria. Lì ne ho fior fior, insomma. Quindi anche in questo caso conta anche l'aspetto fisico nel pregiudizio, lei me ne dà conferma. Ah sì, questo sì, purtroppo pensiamo che il colore della pelle ancora renda le persone diverse da noi piuttosto che i lineamenti. Quando invece scopriremo che dietro quei lineamenti ci sono persone uguali a noi, allora avremo superato tutti quanti i problemi, però sembra che l'Italia sotto questo punto di vista sia ancora un po' arretrato. Quindi io soprattutto sprono tutti gli scrittori di seconda generazione a continuare a scrivere sempre più libri su questo argomento, così da poter sensibilizzare l'opinione pubblica italiana. Intanto noi, prima di salutarci, diamo la ricetta di oggi, che arriva appunto proprio dalla Siria. La cucina siriana è stata influenzata dalla cucina turca ottomana e da quella francese, ma anche dai paesi vicini. Generalmente sono previste tre portate: gli antipasti, il piatto principale e il dessert, seguito dal caffè. Tra gli antipasti freddi sono molto buoni il mutabal, che è una crema di melanzane, l'hummus, crema di ceci, il mammara, pasticcio di noci e peperoni. Tra quelli caldi il fatayeh, ossia fagottini di pasta ripieni di carne, formaggio o spinaci. Il sauda, fegato stufato in succo di melograno, e l'isanat, cervella e lingua d'agnello. Il piatto principale può essere costituito da kebab, spiedini di carne tritata, kafta, carne tritata al forno con patate e pomodori, shukaf, spezzatino d'agnello grigliato. Fanno spesso da contorno zucchine ripiene o melanzane in salsa di pomodoro. Il pasto si conclude con i dolci. Fra i più conosciuti il baklava, pasta sfoglia ripiena di noci, mandorle o pistacchi, ris bihalib, riso e latte, mulabiyeh, budini di riso aromatizzato con acqua di rose e pistacchi. Dopo il dolce si beve il tè, spesso aromatizzato con menta, cardamomo o cannella, oppure il caffè, che può essere alla turca, denso e molto dolce con deposito sul fondo, oppure arabo, più forte, amaro, aromatizzato con il cardamomo. Le bevande alcoliche vengono servite solo in alberghi e locali autorizzati. Oltre alla birra locale si trovano vini siriani e libanesi. La bevanda nazionale è l'arak, una grappa di vinaccia all'anice.